24. Spalle in fiamme, muscoli doloranti, vertebre a pezzi, il male al cervello di chi è rimasto concentrato troppo lungo. Anche per i barcaioli più esperti, le ultime 24 miglia del viaggio erano un incubo d'acqua e roccia. Le rapide non davano tregua. Tre fiumi, ferro di cavallo, salto di Braddock, rapida della roccia liscia, corno del diavolo, salto delle 6 miglia. Piccola rapida della roccia liscia, barre storte del demonio, corsa dei cavalli del diavolo, salto di Oswego. Per non parlare delle cascate a metà strada, 12 piedi di altezza e un rumore che era l'eco di 100 tuoni. Il convoglio le aveva girate, coi battelli di nuovo in spalla, carichi di vecchi, feriti malati e una donna gravida. Un pomeriggio di fine giugno, i tre forti di Oswego erano apparsi alla vista. Sullo sfondo, l'azzurro dell'acqua incontrava il cielo. Fort George era uno scheletro annerito, dato alle fiamme durante la guerra. Poco lontano, i ruderi di un altro forte, rifugio di stroghe e oche. La piazza d'armi accoglieva le capanne degli indiani giunti per il concilio. Di fronte a ognuna campeggiavano armi, scalpi, trofei di guerra. Un clamore diffuso accompagnava il via vai di uomini e donne. Richiami, abbaiare di cani, grida di bambini, mercanti vestiti di pelle strillavano le virtù delle merci. I fuochi si preparavano a rischiarare le notti. Oswego significava scorre veloce, ma i ricordi di Joseph erano troppo densi per scivolare via. 16 anni prima, dalla stessa spianata, era partita la spedizione contro i francesi. Sir William aveva guidato l'assedio di Fort Niagara, la sua più grande vittoria e il battesimo del fuoco per Joseph e la Croix, la prima volta che le 6 nazioni avevano combattuto unite a fianco degli inglesi. Fort Ontario era ancora in buono stato, benché la guarnigione non lo abitasse più da 5 anni. Joseph aveva lavorato lì come interprete. In una baracca del cortile aveva visto la moglie Peggy dare alla luce Isaac, il primogenito. «Fratelli!» La voce di piccolo Abramo tornò a risuonare nel cortile, dopo una breve pausa. «Le 6 nazioni sono alleate del re inglese da molte stagioni. Sono amiche della famiglia Johnson, di Warraghyllagay e del suo successore Urag Quadirà, che ormai da un anno cura le nostre faccende e mai ci ha dato motivo di lamentela. Io credo però che non sempre un uomo debba occuparsi delle dispute dei suoi amici. Se tu vieni a dirmi che qualcuno ha bruciato la tua casa, io prendo il mio fucile e ti accompagno sul fiume, anche per molte miglia, per giorni interi, finché tu non avrai giustizia. Ma se litighi con tuo figlio perché la brocca dell'acqua è vuota e vieni da me a chiedere aiuto, io ti dirò, va, torna da tuo figlio e risolvete l'affare tra voi. Se ti seguissi fino a casa, non farei che aggravare il vostro litigio. Fratelli, io credo che il grande padre inglese sia abbastanza autorevole per trattare da solo coi suoi figli ribelli. Non posso dimenticare che tra essi ci sono uomini come Nicholas Herkimer, Philip Schuyler e molti altri che hanno sempre rispettato il nostro popolo, i figli, le figlie, i padri, le madri della nazione, la lunga casa e il sacro fuoco. 2 mesi fa, quando ci dissero che il nostro commissario correva il rischio di essere fatto prigioniero, mandammo subito i guerrieri a difendere la sua casa. Chiedemmo agli uomini più onorevoli dell'assemblea coloniale di garantirci che nessuno avrebbe fatto del male a Guy Johnson. Solo allora scaricammo i fucili. Fratelli, se le terre del re fossero minacciate da un esercito straniero, le 6 nazioni combatterebbero per difenderle, come hanno fatto in passato. Per ogni colpo alla lunga casa, le 6 nazioni sono pronte a restituirne 1000. Ma questo oggi non accade, e l'amicizia tra le 6 nazioni e l'Inghilterra rimane un'amicizia di pace, perché nessuna guerra è stata dichiarata. Fratelli, ho parlato. Il discorso di piccolo Abramo concluse il primo giro di consultazioni. Guy Johnson aveva chiesto di sentire subito i capi più influenti di ogni nazione, oratori capaci di convincere centinaia di uomini. Nessuno aveva messo in discussione la lealtà alla corona. Nessuno aveva preso posizione contro i coloni Whig. Ridotto all'osso, era lo stesso discorso ripetuto 6 volte. Le divergenze che attraversavano la lunga casa si celavano dietro sfumature di tono e parole, finezze che gli inglesi non erano in grado di cogliere. Gli Oneida erano stati meno amichevoli. La predicazione di Kirkland lavorava in profondità. I Seneca stavano a guardare per riscuotere doni da entrambe le parti. Tuscarora e Cayuga seguivano i Seneca come cuccioli di lupa. Yonondaga, custodi del sacro fuoco, avevano rivendicato completa equidistanza. Joseph attese un cenno di Guy Johnson. Il commissario sembrava tranquillo, l'espressione sicura. Si alzò in piedi e cominciò a parlare. Per prima cosa ringraziò gli oratori per la loro schiettezza, poi ricordò Sir William, morto un anno prima, proprio durante un concilio. Infine recitò alcune frasi che suscitarono grande approvazione, cenni del capo e un echeggiare di «Hoye» da un angolo all'altro del piazzale. Joseph rabbrividì. Erano le parole usate da Sir William per convincere le sei nazioni ad assediare Fort Niagara. Facevano parte di Oswego, come gli olmi dell'antica foresta e la brezza del lago. Guy Johnson evocava la forza del luogo, quella che i Mohawk chiamavano Orenda. Joseph iniziò a tradurre. Sentì che il commissario aveva toccato le corde giuste e si sforzò di infondere alle parole l'energia di cui era capace. In quel momento Guy Johnson infilò una mano sotto la giubba ed estrasse un foglio ripiegato con cura. «Fratelli», riprese, «ho qui una lettera del generale Thomas Gage». Sventolò il foglio e lo spiegò davanti agli occhi. «Il capo dell'esercito del re mi informa che i ribelli minacciano i territori del Canada. Tutti sapete della caduta di Fort Ticonderoga. Lo scopo dei traditori è soggiogare i possedimenti della corona. Razzieranno le città, svuoteranno granai e polveriere, già che essi possiedono a malapena cibo e munizioni che voi avete ancora in abbondanza, grazie alle navi di Sua Maestà». Joseph pensò che l'argomento era buono, per quanto i Seneca non amassero sentirselo ricordare. Poco più di 10 anni prima, ai tempi della ribellione di Pontiac, molti di loro avevano sperato di fare a meno dei bianchi, di tornare all'arco e alle frecce. Ridotti alla fame, s'erano dovuti ricredere. Joseph tradusse cercando di rendere il concetto meno offensivo possibile. Conosceva fin troppo bene la suscettibilità dei suoi fratelli. «Quelli che voi chiamate figli ribelli», continuò il commissario, «non sono altro che nemici del re, come lo erano i francesi. Ecco perché il generale Gage», di nuovo mostrò la lettera, il braccio teso sopra la testa, «ordina di condurre in Canada una spedizione guerriera, attaccare da nord e scendere fino ad Albany per non trascinare oltre questo inutile conflitto. Chi si è appena dichiarato amico del re non può negargli il suo appoggio». Un brusio nervoso serpeggiò tra le teste, a partire da quelli che capivano l'inglese, e subito Joseph si trovò addosso centinaia di occhi. Esitava, incapace di ripetere ciò che aveva ascoltato. L'orrenda delle parole non conosce distinzioni di lingua. Tradurre un sortilegio può essere pericoloso quanto lanciarlo. Continuò a parlare, badando che le frasi uscissero dalla bocca come acqua cattiva da sputare via, ma per quanti sforzi facesse, il sapore restava attaccato alla lingua. Dalla folla si levarono grida di approvazione, voci troppo giovani per capire cosa stesse accadendo. I guerrieri adulti e gli anziani erano ammutoliti, come se qualcuno si fosse alzato e avesse spento con una pisciata le fiamme al centro del cortile. Il sorriso compiaciuto di Guy Johnson si dissolse. In quel momento Joseph capì. La strategia del commissario era evidente: incassare promesse e riscuoterle in un colpo solo, grazie a un ordine che pretendeva guerrieri, non parole. Ecco il vero motivo per radunare un concilio a 150 miglia da casa. Difendere il Canada, non le sei nazioni. Joseph studiò i volti induriti dei Sachem e dei guerrieri anziani. Incontrò lo sguardo di Philippe Lacroix. Il gran diavolo era impassibile. Qualcuno gli toccò la gamba e indicò il commissario. Guy Johnson aveva ripreso a parlare. «La corona inglese», stava dicendo, «non chiede il vostro appoggio senza nulla promettere in cambio. Al termine della campagna, prima dell'inverno, ciascun guerriero riceverà 4 sterline in valuta di New York. Inoltre il generale Gage promette in modo solenne che, a guerra finita, tutte le terre oggetto di contesa tra voi e i coloni verranno restituite alla lunga casa. Qualunque perdita di terre o di beni verrà indennizzata in eguale misura». Joseph finì di tradurre, nel silenzio dell'assemblea. In altre circostanze una promessa simile avrebbe sollevato boati di entusiasmo, ma in quel momento faceva parte di un gioco truccato. Era solo un altro azzardo per bilanciare il precedente. I Sachem si sentivano presi in giro. Joseph masticava fiele. Come capo di guerra aveva speso migliaia di parole per convincere la sua gente. Bisognava mostrare i muscoli delle sei nazioni Così i ribelli avrebbero smesso di ringhiare. Riunirsi lontano da casa, lontano da orecchie indiscrete, malintesi e provocazioni, per poi tornare in forza a difendere la valle. Aveva ricordato loro a ogni passo, a ogni colpo di remo, quanto solido e leale fosse il legame tra i Mohawk e la famiglia Johnson. In cambio, Guy l'aveva reso complice di un trucco maldestro per forzare la mano al concilio. Joseph tornò al suo posto. Toccava di nuovo a Sakem e al loro interprete designato. Sapeva che i capi non si sarebbero scomposti. Prendere tempo era un'arte che conoscevano alla perfezione. Mentre sedeva, un sussurro gli scivolò nell'orecchio. La voce di Canenonte. «Il giorno è arrivato, Thayendanegea. Samuel Waterbridge avrà la sua vendetta. Noi tutti l'avremo». Joseph sentì di non avere scelta. Se non voleva perdere la faccia, doveva essere il primo a salire sui battelli per il Canada. Doveva parlare agli indecisi, nonostante tutto. Portare ancora acqua al mulino di Guy Johnson.